quando era nico, che io cava mezzo la strada, quando mia nonna mi chiamava e 5 lire mi dava. Quando il giorno si scurava, tutta la gente rincasava, si cantava e si mangiava, si viveva e si ballava. Pisavano gli spicchi, scitticavano dalla paglia con la slitta fatta di seccia. Io pensavo quando era nico, io cava con l'amici, quando una voce mi chiamava e forte forte mi cantava. E lo latte di la crapa, la minno la pistata, la cittu cantatori che cantava tutti loro e cantava San Giovanni, con gli schierno non li panni, li panni li pannizi e li trizzi incannulati. Pensava quando era nico, Zarosa mi chiamava e con la voce fina fina mi insegnava a pregare. Quando era mirne faceva freddo, mi quadriavamo vicino a conca, si contavano storie vecchie mentre lo vento sbatteva a porta. Quando era nico, io cava mezzo la strada, quando mia nonna mi chiamava e 5 lire idda mi dava. Io pensava quando era nico, io cava con l'amici, quando una voce mi chiamava e forte forte mi cantava. E un latte di la crapa, la minno la pistata, la cittu cantatori che cantava tutti loro e cantava San Giovanni, con gli schienno non li panni, li panni li pannizi e li trizzi incannulati. E un latte di la crapa, la minno la pistata, la cittu cantatori che cantava tutti loro e cantava San Giovanni, con gli schienno non li panni, li panni li pannizi e li trizzi incannulati. Caiucava in mezzo la strada, quando mia nonna mi chiamava e 5 lire idda mi dava, quando mia nonna mi chiamava e 5 lire idda mi dava. Io pensavo quando era nico, caiucava in mezzo la strada, quando mia nonna mi chiamava, 5 lire idda mi dava, quando mia nonna mi chiamava, 5 lire idda mi dava. E un latte di la crapa, la minno la pistata, la cittu cantatori che cantava tutti loro e cantava San Giovanni, con gli schienno non li panni, li panni e li pannizi e li trizzi incannulati. E un latte di la crapa, la minno la pistata, la cittu cantatori che cantava tutti loro e cantava San Giovanni, con gli schienno non li panni, li panni e li pannizi e li trizzi incannulati. Forti, forti mi cantava.